Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Bentornati, buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la rassegna stampa dei periodici italiani e stranieri, settimanali e non solo. La prima cosa di cui vi voglio parlare questa mattina è relativa ai citofoni. Parliamo di citofoni perché i citofoni sono uno strumento, un oggetto che vediamo tutti i giorni, forse ci facciamo poco caso. Andrea Galli invece sul magazine che abbiamo trovato con il Corriere della Sera giovedì, ci si è fermato a guardare i citofoni di Pioltello. Che cosa hanno di speciale i citofoni di Pioltello? Hanno di speciale che sono probabilmente uno spaccato sul nostro futuro prossimo venturo, cioè comprendono nazionalità tutte diverse. In questi citofoni che campeggiano in una foto appunto centrale nel servizio di Andrea Galli sul magazine, si possono leggere tutti i cognomi per lo più stranieri. E poi guardando meglio si scopre che Pioltello, che è un comune a 7 km da Milano, comprende in sei vie, 80 nazionalità. Questo si legge in una scheda che accompagna il lavoro di Galli, la nazionalità tra via Cimarosa e le altre 5 strade che delimitano il quartiere satellite di Pioltello, 7 km a nord-est di Milano, 80 nazionalità. In tutto Pioltello conta 34.000 abitanti, di questi almeno 7.000 sono stranieri. Di questi poi 6.000, e senza contare i clandestini, vivono al quartiere satellite, quindi questo quartiere di Pioltello. 7 sono le famiglie italiane del satellite 7, su oltre 200 totali. Fino agli anni 50, quando fu costruito il quartiere, Pioltello era fatto da cascine e da chiese. Il prezzo al metro quadro delle abitazioni che sono in vendita al quartiere satellite è di 1000 euro, è un prezzo, va detto, basso per le quotazioni di Milano, un prezzo decisamente basso, e probabilmente questo discende anche dall'aspetto decisamente multietnico, come usa dire, di questo quartiere, perché, come spiega appunto il servizio, ci sono 80 nazionalità, pensatene una qualunque, scrive Galli, la troverete. L'Uzbekistan c'è, la Gambia c'è, l'Estonia, la Giordania, la Guinea, l'Armenia, Malta, e ci sono sempre meno italiani. A Pioltello, dei 34.000 abitanti, 7.000 sono stranieri, e nessuno sa più spiegare perché è diventato un posto così multietnico, il più multietnico se consideriamo le dimensioni, la densità e le provenienze rispetto a tutta Italia. Il racconto poi di Andrea Galli è una fotografia molto fedele, molto documentata di come si vive, e si vive tra, come dire, grandi opportunità e grandi contraddizioni, perché l'inserimento, come si usa dire, non è sempre così facile né sempre così pacifico, e quindi anche la convivenza di queste tante etnie, di queste tante nazionalità, di queste tante culture sicuramente crea più di un problema. Tutto questo lo abbiamo visto sul Corriere della Sera Magazine. E allora, visto che stiamo parlando di cose internazionali, diamo un'occhiata a Newsweek. Newsweek ha dedicato la copertina naturalmente all'influenza messicana, o influenza suina, o influenza A, come volete, come preferite chiamarla, ma c'è all'interno del numero di questa settimana un rapporto speciale dedicato ai viaggi. In questo rapporto dedicato ai viaggi si scoprono anche delle cose molto interessanti e inattese, ad esempio che i cinesi stanno cercando, le autorità cinesi, di incoraggiare i viaggi dei loro concittadini all'interno della Cina stessa. Perché? Perché appunto il titolo del servizio è di ritorno dall'estero. I cinesi sono diventati dei forti viaggiatori in tutti i paesi del mondo, ma poco propensi a viaggiare invece all'interno dei loro confini. Ad esempio riferisce qui l'articolo su Newsweek che gli Stati Uniti recentemente hanno addirittura facilitato per i gruppi di viaggiatori cinesi l'ottenimento dei visti. Ci sono diversi interessi anche economici da parte dell'industria del turismo, degli operatori del turismo americani, per offrire mete preferenziali ai cinesi. E per cercare di reagire e anche di favorire in qualche modo il movimento interno, invece il turismo interno, il governo sta preparando un piano di interventi, sta cercando di facilitare in qualche modo lo spostamento dei cinesi all'interno dei loro stessi confini. I numeri sono, trattandosi della Cina, ovviamente molto importanti. L'anno scorso si calcola che ci siano stati 40 milioni di cinesi che hanno viaggiato in tutto il mondo e ci sono praticamente molti paesi che si stanno candidando molto fortemente anche per attirare il turismo cinese, appunto. Di tutt'altro turismo parla sempre Newsweek nello stesso rapporto, un turismo dettato da tutt'altri motivi, il turismo cosiddetto medicale, cioè andare a curarsi all'estero. Ci si riferisce qui che appunto Sana Butre scrive le persone viaggiano sempre di più anche al di qua, al di là dell'oceano per cercare cure mediche e per cercare anche terapie più a buon mercato di quelle che possono trovare nei loro paesi. C'è una previsione riportata nell'articolo, si pensa che nel 2012, quindi nel giro di 3 anni, il turismo cosiddetto medicale muoverà più o meno 100 miliardi e ci saranno all'incirca 780 milioni di pazienti in giro per il mondo a cercare di trovare un posto dove curarsi a minor prezzo. Questa è l'indicazione appunto che ci viene di questo turismo medicale, del tutto diverso dal turismo di cinesi di cui abbiamo parlato in precedenza. Torniamo in Italia per una vicenda che avete visto sui giornali nei giorni scorsi. Parliamo dei controlli fiscali sulle scuole private. Non so quanti di voi l'abbiano letto, c'è stata una circolare dell'Agenzia delle Entrate, quindi del fisco, l'amministrazione fiscale, che a un certo punto dice che tra i controlli che si possono disporre per verificare la disponibilità di reddito dei cittadini c'è anche il fatto che i figli del contribuente controllato vadano o meno a una scuola privata. La questione ha sollevato un discreto pandemonio, per dir così, perché se ne occupano infatti con una certa enfasi sia Tempi, settimanale Tempi, sia Famiglia Cristiana, con accenni molto molto critici appunto a questa presa di posizione delle entrate. Vi do conto ad esempio di un passaggio dell'editoriale di Famiglia Cristiana che dice occorrerebbe un'alleanza virtuosa tra scuole dello Stato, scuole non statali, associazioni laiche e cattoliche, ma anche tra famiglie e docenti. Mentre, tornando invece all'Agenzia delle Entrate, qualcuno nella maggioranza ha posto il problema, ma non ci sono state risposte. Risposte alla maggioranza, zero. Anche l'opposizione brilla per silenzio. Non sarà, si chiede polemicamente l'editoriale di Famiglia Cristiana, che la scivolata dell'Agenzia delle Entrate può far comodo per entrare a gamba tesa nella solita battaglia contro i cattolici? Questa è la polemica domanda che chiude l'editoriale di Famiglia Cristiana, ovviamente in difesa della libertà di insegnamento delle scuole private. Tempi ne approfitta, cioè rientra su questa vicenda per dare qualche indicazione anche numerica. Si scrive ad esempio in questo servizio di Emanuele Boffi che in Lombardia stanno crescendo le richieste di iscrizione alle scuole paritarie, alle elementari stanno crescendo del 15%, alle medie del 10%. Merito anche della cosiddetta dote scuola, che è il sistema di sostegno allo studio inventato in Lombardia. Ma più avanti si segnala anche, scrive Boffi, che nell'anno scolastico 2006-2007 lo Stato ha speso 7.284 euro per ciascuno studente di scuola statale e il divario con la spesa per le paritarie, cioè le private, è abissale. Per l'anno 2006-2007 sono stati spesi 517 euro per ogni studente di scuola paritaria. Ora, per completare il quadro, naturalmente le polemiche tra scuole private e scuole statali non mancano mai e probabilmente continueranno e avremo altre occasioni di riferirvene. Va detto che poi le entrate l'hanno precisato con una lettera che è stata anche pubblicata sul Sole 24 Ore, qual è il senso di questo richiamo. Cioè, nessuno dice che mandare i figli a una scuola privata sia un indice da ricchi, questo l'hanno spiegato dall'Agenzia delle Entrate. In realtà posti tutta un'altra serie di parametri che comprendono appunto il possesso di appartamenti, la disponibilità di una governante, e di una barca, di un cavallo e altro ancora, ci sono degli ulteriori indicatori che il fisco può guardare. Tra questi ulteriori indicatori il fisco ha citato a titolo di esempio le palestre, le scuole private. Nell'indicazione data da Attilio Befera al Sole 24 Ore qualche giorno fa è stato precisato che si intende una spesa importante per una scuola privata, cioè non il fatto di andare a una scuola privata piuttosto che statale come indicatore di reddito, ma il potersi permettere magari una retta in un istituto molto esclusivo. Questo dovevamo anche in qualche modo all'Agenzia delle Entrate come chiarimento. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di redditi, redditi appunto che il fisco vuole accertare, vuole presumere a nostro carico quando avvengono i controlli con il cosiddetto redditometro, ma di redditi si occupa anche nella sua rubrica su Panorama Luca Ricolfi. Panorama in edicola ieri, la domanda di Ricolfi è: c'è più reddito reale al sud? La domanda è ovviamente un po' provocatoria, ma viene spiegata appunto in questa rubrica di Ricolfi. Perché? Perché spiega Ricolfi: alcuni beni costano un po' di più, molti, sempre al sud, costano meno, ma costano molto meno case e affitti, la maggior parte dei servizi pubblici e in generale i beni di prima necessità. Che cosa succede quindi? Succede che, pur essendoci dei redditi mediamente inferiori, la accessibilità di servizi essenziali a prezzi ridotti metta in una condizione migliore chi vive al sud rispetto a chi vive al nord. È una questione abbastanza nota e dibattuta, per quanto non si facciano mai dei gran passi avanti sull'idea di avere dei salari differenziati o correttivi di qualche tipo per tenere conto della capacità di spesa reale, ma Ricolfi torna ad affrontare questo argomento spiegandolo anche con qualche numero. Vediamo. Dice: se si parla del tenore di vita, ossia di come se la passa la famiglia tipo del mezzogiorno, il quadro si fa più sfumato rispetto appunto allo storico divario che sempre si ha tra nord e sud. La famiglia meridionale media dispone effettivamente di redditi nominali più bassi di quelli delle famiglie centro-settentrionali, meno 26%. Inoltre ha un carico medio, cioè un numero di componenti un po' più alto del 10%. Però, scrive Ricolfi, ha tre vantaggi formidabili: una maggiore evasione fiscale, su questo leggiamo così com'è senza commenti, una redistribuzione favorevole grazie agli aiuti pubblici, un livello dei prezzi decisamente più basso. E qui è la parte più interessante, perché, spiega Ricolfi, c'è chi dice che lo scarto nei prezzi sia solo del 10-15%, chi dice che sia del 30% e oltre. Purtroppo sono pochissime le ricerche che hanno provato a misurare i differenziali geografici nel potere di acquisto della stessa quantità nominale di reddito. Da questo deriva poi tutta una serie di considerazioni numeriche che vengono svolte da Ricolfi, e si conclude in questo modo: il vero colpo di scena avviene introducendo il livello dei prezzi. I consumi reali della famiglia media del mezzogiorno risultano del 5% più alti di quelli del centro-nord, diventano appena un po' inferiori del meno 5% se li si corregge per la maggiore numerosità della famiglia tipo meridionale. Insomma, siamo vicini alla parità. Può darsi che l'esercizio sia sbagliato, perché nessuno sa con certezza qual è il costo della vita nelle oltre 100 province italiane, ma resta il fatto che, se vogliamo continuare a credere che il tenore di vita medio del mezzogiorno sia significativamente più basso di quello del centro-nord, occorre dimostrare che i prezzi al sud sono di poco inferiori a quelli del resto del paese, e l'ipotesi, conclude Ricolfi, è assai poco verosimile. Allora, parlavamo di servizi essenziali, di acquisto di beni essenziali come gli alimentari. Una curiosità che è sul Venerdì, allegato ieri a Repubblica: mangi mentre guidi, la pagherai. In Inghilterra ci sono multe salate e rincari della polizza se vi beccano a mangiare mentre guidate. Chi mangia mentre guida in Inghilterra la paga cara. I guidatori che hanno preso una multa perché colti al volante col boccone in bocca si vedranno aumentare la polizza assicurativa fino al 40%. E lo scorso anno sono stati stati 25.300 gli inglesi puniti proprio per questo motivo, con multe da 60 sterline e 3 punti in meno sulla patente. Una regola troppo severa? Beh, secondo il codice della strada inglese è proibito anche fumare, bere, inserire il CD nel lettore, cercare una stazione radio, discutere con i passeggeri o gli altri automobilisti, leggere e ascoltare la musica ad alto volume. Davvero, i guidatori inglesi sono obbligati dalle loro norme a tenere un comportamento assolutamente irreprensibile. Ancora dal venerdì di Repubblica un sondaggio che è dedicato alle prossime elezioni europee. Un sondaggio raggela le urne, mai tanti astenuti come stavolta. Già nella scorsa puntata parlavamo di come le elezioni europee finiscano per scaldare meno in qualche modo gli animi degli elettori, in quel caso si parlava degli italiani. Qui il venerdì ci riferisce che secondo Eurobarometro, l'istituto di ricerca della UE, nonostante il peso dell'Europarlamento sia cresciuto, in media solo un europeo su 3 risulta interessato a queste elezioni, e in Italia siamo addirittura sotto la media, 30% contro il 34% della media. Insomma, diciamo che siamo appena sotto la media in qualche modo. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 27.000 persone, quindi sondaggio abbastanza ampio. L'entusiasmo maggiore è riferito al Belgio, il 70% dei cittadini di quel paese sarebbe propenso ad andare a votare, poi seguono il Lussemburgo al 62%, la Danimarca al 56%. Dall'Italia si trova, come detto, al 30%, molto molto in basso, ma ancora più in basso di noi anche qualche altro paese molto importante, tipo la Spagna che sta al 27%, piuttosto che il Portogallo, la Gran Bretagna 24%, 22%. Fanalino di coda di questa classifica dei 27 paesi, la Polonia, dove solo il 13% dei cittadini, secondo, ripeto, questo sondaggio riferito dal venerdì, sarebbe interessato ad andare a votare per le elezioni al Parlamento europeo. Così abbiamo allargato il nostro orizzonte alle questioni sovranazionali, alle questioni europee. Allora, il Nouvel Observateur, settimanale francese, dedica la sua copertina alla insurrection française, alla rivolta della Francia. Fin dove può arrivare, si chiede il settimanale, il popolo, le masse contro le élite, i peccati capitali dei dirigenti, e la domanda ultima: ma c'è davvero il rischio di una rivoluzione? Come sapete, ne abbiamo parlato già diverse volte, c'è un notevole malessere sociale che in Francia è testimoniato anche da questi episodi, appunto, di boss snapping ad esempio, o scioperi, astensioni dal lavoro e manifestazioni più violente che non in altri paesi d'Europa. Effetti della crisi, certo, ma che presso il paese al di là delle Alpi hanno trovato effetti, hanno trovato manifestazioni decisamente più violente che non altrove. Una intervista che viene ospitata in questa lunga inchiesta nel Nouvel Observateur a uno studioso di scienze sociali, Christophe Prochasson, spiega Prochasson: non vedo una violenza in qualche modo organizzata, una violenza, si tratta più che altro di una violenza di reazione che risulta dalle grandi disuguaglianze sociali, ma non ci sono ancora dei contenuti politici all'interno di queste rivendicazioni, o una volontà di fare una rivoluzione, piuttosto c'è quella di cercare di migliorare, di minimizzare i piani di riduzione personale o di ristrutturazione. Quindi tutto sommato abbastanza positiva la lettura, abbastanza tranquillizzante la lettura di Prochasson. Sempre su Nouvel Observateur poi c'è una bella intervista a Roberto Saviano. Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, fa sempre un po' impressione vedere i fatti di casa nostra riferiti dall'estero. Saviano torna in questa intervista sulle sue difficoltà di essere proprio compreso e qualche volta incompreso o addirittura mal sopportato all'interno del suo paese, cioè all'interno dell'Italia. In qualche modo riferisce anche in questa intervista al Nouvel Observateur: vengo criticato perché sono diventato diventato un personaggio, e quindi me ne approfitto, gioco a fare il perseguitato, e in realtà sono una star televisiva. Da questa accusa si difende Roberto Saviano sul Nouvel Observateur. In chiusura di questa nostra puntata vi voglio segnalare che con il Sole 24 Ore potete trovare l'impresa di maggio, il numero di maggio, in vendita a 4,90 €. C'è in copertina una foto di Rubini, e Rubini è il guru che in qualche modo aveva previsto la crisi. In questa bella intervista Rubini ci fa conoscere le sue ultime previsioni. Il titolo è incoraggiante: La luce in fondo al tunnel, sull'impresa di questo mese. E con questo il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio Peter Bescapè per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.